L'Israeli Apartheid Week è un'iniziativa internazionale che si svolge quasi in contemporanea in oltre 200 città al mondo, soprattutto nei college universitari e nei campus, essendo un'iniziativa che è nata dagli studenti canadesi, via via allargandosi poi a diverse realtà, ma molte volte noi stiamo lavorando sul discorso studenti, perché pensiamo che siano soprattutto loro quelli che dovranno portare avanti il sostegno alla lotta dei palestinesi. E l'iniziativa quest'anno si svolge in diverse città e a Bologna abbiamo programmato alcuni incontri. Il tema generale che è stato dato all'Apartheid Week a livello internazionale è Stop Arming Colonialism, che vuol dire basta armi al colonialismo. Il colonialismo israeliano è un colonialismo ormai di stampo ottocentesco, anche se purtroppo va ancora avanti dopo tanti anni il progetto sionista di sostituire dei coloni ebrei alla popolazione residente che è stata via via deportata subendo diverse espulsioni dai loro territori iniziali. Le iniziative quindi sono diverse, abbiamo la prima il 14 insieme agli studenti di universitari contro l'apartheid israeliana, la facoltà di lettere via Zamboni 38 nell'aula 6, e qui avremo ospite una importante figura che è la professoressa Virginia Tilley, che insieme al famosissimo Richard Falk, che è stato anche rapporteur delle Nazioni Unite nei territori palestinesi, scrisse un paio d'anni fa questo rapporto sull'apartheid israeliana per conto delle Nazioni Unite, che lo pubblicarono nel proprio sito, salvo poi doverlo ritirare su pressioni americane e israeliane nel giro di 48 ore. Quindi questo rapporto scomparve e noi l'abbiamo recuperato e l'abbiamo tradotto in italiano. Gli studenti di Torino, del gruppo Progetto Palestina di Torino, insieme all'Associazione dei Traduttori per la Pace, hanno tradotto il testo e l'abbiamo pubblicato e quindi lo stiamo diffondendo. Questa iniziativa si terrà alle 17, abbiamo detto, all'aula 6 di via Zamboni 38. Ok, perfetto. Allora, diciamo di iniziative, poi appunto se ne seguiranno tante, perché diciamo si apre il 14, ma poi è una settimana che andrà avanti fino al 25 marzo. Mm-hmm. E in particolare, dicevi, il tema di quest'anno è proprio quello di smettere di armare Israele, il colonialismo israeliano, diciamo. Infatti, certo, ospiterete anche Giorgio Beretta, tra l'altro dell'Opal, che è stato ospite anche su queste frequenze. E quindi ti chiederei anche, appunto, visto che è un'iniziativa internazionale, ma poi ha anche una realtà, diciamo, italiana, come si contestualizza anche l'Italia in quest'ambito? Quindi se l'Italia, intanto la prima domanda è se l'Italia vende armi a Israele. Assolutamente sì, purtroppo. Noi siamo, secondo gli esperti del settore, il quarto fornitore di armi a livello europeo nei confronti di Israele. Israele naturalmente vende armi a tutti, soprattutto anche a regimi molto autoritari di estrema destra, che utilizzano sia armi sia sistemi di controllo, per cui adesso vanno molto di moda questi droni per il controllo della popolazione, e l'Europa ha fatto recentemente un accordo con Israele proprio per l'utilizzo di due droni, uno in Grecia e uno in Italia, per il controllo dei flussi di migranti. Quindi noi siamo in pieno nell'obiettivo di questo discorso. Noi abbiamo questa iniziativa internazionale per un embargo generale nei confronti di Israele e stiamo facendo pressioni anche sull'Unione Europea perché non venga inserita Israele nei progetti di ricerca che l'Unione Europea finanzia, in particolare con il nuovo programma Horizon 2020 che verrà rifinanziato a breve. L'Italia è in prima fila in questi rapporti, i nostri ministri si vantano di avere questi rapporti privilegiati con questo paese, ignorando completamente la questione palestinese, ignorando il fatto che Israele da 72 anni ormai occupa illegalmente il territorio di un altro paese che non può nascere perché questo viene impedito dalla forza. Quindi noi avremo questo incontro organizzato insieme al TPO presso la loro struttura. Ospiteremo sia Giorgio Beretta di Opal, sia Antonio Mazzeo, che è un giornalista e anche un attivista molto bravo, molto famoso nel settore, e Rossana De Simone, che è stata prima operaia addirittura in un'industria d'armi e adesso è collaboratrice di Peace Link, che è questa rete di associazioni per la pace. E dopo questo breve dibattito, questo incontro, ci proietteremo il documentario The Lab del regista israeliano Yotam Feldman, che parla degli armamenti e della ricerca sul settore delle armi in Israele. La cosa particolarmente odiosa delle armi israeliane è che loro le vendono come testate sul campo, in quanto naturalmente prima le provano sui palestinesi. Guarda caso, dal 30 marzo dell'anno scorso a oggi, oltre 266, purtroppo la contabilità è in continuo movimento, palestinesi di Gaza sono stati uccisi dal fuoco dei tiratori scelti oppure dai droni israeliani che continuano ad assediare questo lembo di terra martoriato. Oltre a questi morti ci sono anche migliaia di feriti che rimarranno sulla sedia a rotelle per il resto della vita, ed sono decine di migliaia ormai. Quindi è una cosa veramente, un'ecatombe che va avanti quasi ignorata dai media, salvo poi riprendere quando i palestinesi lanciano un aquilone con rudimentali strumenti per appiccare il fuoco a qualche campo coltivato israeliano, e questo diventa un grave attentato. Gli ultimi due appuntamenti sono il 19 ore 18 presso la libreria Modo InfoShop in via Mascarella, sul tema dell'infanzia negata dei bambini palestinesi. Presentiamo un libro, Salam e bambini che volevano giocare. E il 25 al centro sociale Giorgio Costa invece la resistenza popolare palestinese, con ospiti due giovani attivisti palestinesi di Tuba e Altuani, che da tempo vengono assediati dai coloni più estremisti che Israele ha mandato in quelle zone.